America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti in America 24 da Berlino, Mario Platero. Beh, devo dire, ieri è stato un momento particolarmente emozionante perché davanti alla porta di Brandeburgo, dove negli ultimi 50 anni due presidenti americani prima di lui hanno fatto storia, Barack Obama, in una giornata caldissima, ma devo dire profumata dai fiori di tiglio che in questo momento sono sbocciati qui a Berlino. Ecco, dicevo, Obama ha cercato a sua volta di stabilire una pietra miliare, ha proposto in nome della libertà, della pace e di un recupero di fiducia nel rapporto con la Russia la riduzione di un terzo degli armamenti nucleari esistenti. Ecco, una proposta, devo dire, subito accolta con distacco da Mosca, che continua a ricreare un'atmosfera più da guerra fredda che da partnership. Questa proposta sul disarmo diretta a Mosca è stata anche il filo conduttore per dare un respiro molto più ampio a questo abbraccio che Barack Obama ha cercato con la Germania, un abbraccio che oggi è molto più difficile di quello che è riuscito ad avere nel 2008 quando era ancora candidato alle elezioni, perché dopo le missioni dei droni, dopo le rivelazioni sul fatto che si sono acquisite informazioni su numeri telefonici americani e internazionali, dopo che Guantanamo resta aperta, beh, i tedeschi, soprattutto i tedeschi della sinistra che lo appoggiavano nel 2008, sono più freddi nei suoi confronti e dunque Obama ha cercato di dare il meglio di sé. Ma sentiamo come è cominciata questa giornata. Hello Berlin! Well, thank you, Chancellor Merkel, for your leadership, your friendship, and the example of your life. Anche la Merkel ha usato il muro di Berlino come filo conduttore. La Merkel è nata nella Germania nell'est e cresciuta sotto il tacco dell'impero sovietico. E dunque anche lei, proprio fisicamente, come persona, rappresenta un simbolo di questa grande trasformazione che è capitata in Germania in questi ultimi 30 anni. But I come here today to Berlin to say complacency is not the character of great nations. Today's threats are not as stark as they were half a century ago, but the struggle for freedom and security and human dignity, that struggle goes on. And I've come here to this city of hope because the tests of our time demand the same fighting spirit that defined Berlin a half century ago. Ecco, il presidente, vi dicevo, ha parlato un po' di tutto, ha parlato anche di ambiente, ha parlato della necessità di dare un messaggio di speranza che da qui si possa propagare dappertutto, nel conflitto fra israeliani e palestinesi, in quello siriano, nei mille conflitti africani, e dice: sono venuto qui a Berlino per ricordare a tutti noi che il compiacimento non è nel carattere di una grande nazione. Le minacce di oggi non sono forse estreme come quelle di 50 anni fa, ma la battaglia per la libertà, la sicurezza e la dignità umana continua. E io sono venuto qui in questa città simbolo di speranza perché le sfide del nostro tempo richiedono lo stesso spirito combattivo che ha caratterizzato Berlino mezzo secolo fa. E qui, in un momento molto commovente, Barack Obama ha fatto un riferimento al discorso di John Kennedy, il discorso pronunciato il 26 giugno del 1963. Questi presidenti americani vengono sempre in giugno, devo dire, in Germania. E Obama ha voluto citare, oltre alla famosa frase "Ich bin ein Berliner", un passaggio che secondo lui è ancora più significativo e si lega alle sfide di oggi. So let me ask you as I close to lift your eyes beyond the dangers of today to the hopes of tomorrow. Beyond the freedom merely of this city of Berlin or your country of Germany, to the advance of freedom everywhere. Beyond the wall, to the day of peace with justice. Beyond yourselves and ourselves, to all mankind. Ecco, in questo passaggio Kennedy dice: lasciate che vi chieda di guardare oltre i pericoli di oggi, oltre la libertà della sola Berlino, a quel giorno in cui, non solo per noi e per voi, ci sarà pace e giustizia per tutti. Ecco, Obama ha citato questo discorso perché se pensiamo che oggi fra israeliani e palestinesi sia impossibile che qualche cosa succeda, beh, guardiamo a cosa è successo in Irlanda del Nord, il primo discorso del presidente a Belfast, vediamo che cosa è successo in Germania. Il messaggio di Kennedy era naturalmente rivolto anche all'Unione Sovietica, come lo era un messaggio altrettanto forte di Ronald Reagan il 12 giugno del 1987. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Questo è Ronald Reagan nell'87, ancora in piena guerra fredda, si rivolge direttamente a Mosca e gli intima di abbattere questo muro e poi aggiunge: finché questa porta resterà chiusa, finché questo muro resterà in piedi, non solo la libertà dei tedeschi è messa in questione, ma la libertà di tutta l'umanità. Ecco, ho voluto darvi questo breve excursus storico perché Obama si è ricollegato direttamente e idealmente con questa sua proposta sul disarmo proprio al rapporto costante che Stati Uniti e Germania, ormai alleati solidissimi, hanno avuto con Mosca, con l'Unione Sovietica prima e con la Russia di oggi. But we have more work to do. So today I'm announcing additional steps forward. After a comprehensive review, I've determined that we can ensure the security of America and our allies and maintain a strong and credible strategic deterrent while reducing our deployed strategic nuclear weapons by up to one-third. And I intend to seek negotiated cuts with Russia to move beyond Cold War nuclear postures. Ecco, avete sentito in questo passaggio del discorso Barack Obama fa l'annuncio formale per la riduzione degli armamenti nucleari. Dice: non viviamo più nella paura di una guerra atomica globale, ma finché le armi nucleari continueranno ad esistere non saremo davvero sicuri. Dunque oggi dice: voglio annunciare un ulteriore passo in avanti. Ho concluso che la sicurezza dell'America e dei suoi alleati può essere garantita anche riducendo di un terzo il nostro schieramento di armi atomiche strategiche e di armi atomiche tattiche. Obama in sostanza ha proposto due cose: da una parte di ridurre da 1550, che era il limite che era stato concordato con la Russia in base all'ultimo trattato STAR, le testate nucleari a un numero di 1000 o 1100. E poi ha chiesto che sia la NATO invece a negoziare la riduzione delle armi tattiche di teatro che sono schierate in Europa. E ha aggiunto: intendo cercare un accordo con la Russia per superare posizioni che risalgono ancora alla guerra fredda. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguitemi su Twitter, @MarioPlatero, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, c'è sempre un gran mistero attorno al nuovo album di Eminem. Doveva uscire dopo il Memorial Day, ancora non si sa niente, neppure il titolo, però proprio martedì sera a sorpresa è trapelata una nuova canzone del rapper di Detroit, Symphony in H. You know what else starts with H, though? Hockey. Shit, thought I had the place flowing. I hate to put you on ice, but you already had 3 periods in 60 minutes. Great going. Shade 45. Cocaine, cocaine, ho. You're always in a mirror with your face off, feeling nervous. Put you all in a line and chop you with a razor blade. Yo, wait, I'm an a-hole. Devil with a halo. Hell yeah, nail J-Lo. To the railroad. Say I won't. Better hope you can. Da Berlino è tutto. Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going. America 24.